questa notte. Le notizie in 60 minuti. All'Eurogruppo negoziato sulla Grecia rinviato a mercoledì, intanto l'ex Troika torna ad Atene. La BCE ha dato il via all'acquisto di titoli, anche italiani, in un'operazione da 150 miliardi di euro. Riforme, domani il voto finale alla Camera, non saranno in aula i 5 Stelle, ci saranno invece Forza Italia, SEL e Lega, minoranza Dem riunita per decidere cosa fare. Le parole del presidente Mattarella ai giovani magistrati della nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati andranno attentamente valutati gli effetti concreti della sua applicazione. La riforma della scuola slitta ancora, Consiglio dei Ministri rinviato a giovedì, slitta anche la riforma della RAI. Nulla di fatto per l'eventuale espulsione di Tosi dalla Lega, nessuna decisione al comitato di disciplina presieduto da Bossi. L'annullamento delle trascrizioni di nozze gay celebrate all'estero può arrivare solo dal Tribunale Civile, lo ha deciso il TAR del Lazio, il commento del Viminale, noi coerenti con le norme attuali. Presentato oggi a San Francisco l'Apple Watch, sarà in vendita dal 24 aprile in 9 paesi, ma non in Italia, dove la data ancora non è stata fissata. I costi variano fra i 349 e i 1099 dollari. La Lazio travolge la Fiorentina per la Juventus contro il Sassuolo, match point scudetto. Partiamo dunque dall'Eurogruppo sul piano di riforme di Atene che si è concluso circa un'ora e mezza fa. Sentiamo. Siamo d'accordo che non c'è tempo da perdere. Mercoledì riprenderanno le discussioni fra le autorità greche e istituzioni europee per arrivare ad una conclusione rapida e di successo. Così ha parlato il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem dopo la riunione dei ministri. Ha avvertito non ci sarà alcun pagamento alla Grecia prima che ci sia un accordo generale sulle riforme e ne sia cominciata l'attuazione. Come era nelle attese, i 7 punti proposti da Varoufakis non hanno convinto l'Europa e così Atene ha accolto l'invito, o meglio l'avvertimento di Dijsselbloem, dicendo di essere pronta ad aggiornare la lista delle riforme. E quello di oggi è stato anche il giorno, come annunciato, della BCE. Poche sorprese per i mercati che hanno vissuto con cautela la prima giornata di acquisti da parte della BCE. I listini avevano già scontato nelle scorse settimane l'effetto quantitative easing, toccando i massimi. Oggi poi ci si sono messe le tensioni tra Atene e Bruxelles a deprimere le piazze, tanto da far lasciare sul terreno la borsa ellenica oltre il 4%. Nel complesso l'Europa ha chiuso contrastata, con Milano in progresso di mezzo punto, Francoforte poco al di sopra della parità, Parigi, Madrid e Londra in calo. Gli acquisti di oggi, rigorosamente sul mercato secondario, l'unico in cui può operare la Banca Centrale Europea, hanno riguardato Germania, Francia, Italia e Belgio. Maggiori dettagli si sapranno tra 7 giorni. La BCE fornirà ogni settimana un resoconto dell'ammontare di titoli acquistati. Ora, quello che tutti si augurano è che con questa emissione di denaro, 60 miliardi ogni mese, scendano i rendimenti dei titoli e il denaro vada verso l'economia reale. Il tutto almeno fino a settembre 2016, avendo come obiettivo quello di alzare il tasso di inflazione, che per l'Eurotower dovrebbe mantenersi stabile intorno al 2%. E se i mercati avevano già scontato l'effetto, sui cambi il risultato è stato più evidente. Euro su dollaro sotto quota 1,09. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana, domani è il giorno del voto sulle riforme, assenti dall'aula saranno solo i grillini, ma non rientra il dissenso delle opposizioni e anche della minoranza Dem. Non sarà una giornata semplice quella di domani alla Camera per l'atteso giro di boa del disegno di legge costituzionale. Il clima di scontro con le opposizioni non è certo cambiato, a differenza però dello scorso 13 febbraio quando ci fu un vero e proprio aventino. Gli unici a lasciare l'aula domani saranno i deputati 5 Stelle. Di Battista spiega il perché. Non usciamo dall'aula perché così forse si crea un interesse, perché c'è poco interesse in Italia sulle riforme costituzionali, perché giustamente i cittadini hanno altri problemi, i livelli di disoccupazione, la povertà. Lega Nord, SEL e Forza Italia saranno in aula, ma resta il loro no alle riforme, un no a quello di Forza Italia che si estende anche alla legge elettorale, come anticipato da Berlusconi e confermato così da Sisto. Abbiamo dialogato, abbiamo trovato delle transazioni, ripeto, che non ci lasciavano pienamente soddisfatti, oggi ci riprendiamo il nostro DNA, quindi voteremo no. Acque agitate intanto nello stesso PD, probabile uscita dall'aula per Civati e Fassina, mentre il resto della minoranza dovrebbe dividersi tra astensioni e voto favorevole. Dalla maggioranza tuttavia si mostra sicurezza, sia alle riforme da Alfano, mi aspetto il suo sostegno di tutti, dice il vice segretario del PD Guerini. I 5 Stelle hanno perso un'occasione, commenta il ministro delle riforme Boschi. Lettera aperta infine del senatore Battista, gli altri ex grillini. Entriamo al governo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in questi minuti è ancora in corso una riunione della minoranza Dem, la minoranza del PD, orientata a votare sia le riforme domani alla Camera, ma insomma stanno ancora discutendo fra loro. Pippo Civati, che dovrebbe raggiungerci, speriamo, se la riunione sarà finita fra poco, qui ad effetto notte. Per quanto riguarda invece il caso Veneto, la Lega rinvia la decisione a domani per un ultimo tentativo di mediazione. È questa la notizia che trapela da via Bellerio, dove oggi pomeriggio si è svolta una riunione del Consiglio di Disciplina e Garanzia della Lega, presieduto da Umberto Bossi, che tornerà a riunirsi ancora domani e che oggi avrebbe ribadito i suoi diktat, cioè nessuna lista a nome Tosi, composizione decisa dalla Lega Veneta ma approvata dal mediatore Giampaolo Dozzo, no alla presentazione della Fondazione Tosiana, ricostruiamo l'Italia alle prossime amministrative. E a far discutere anche un'altra riforma, quella della giustizia e della responsabilità dei magistrati. Ad intervenire su questo oggi il Capo dello Stato. Al loro fianco, da attento custode, dice, dell'indipendenza e dell'autonomia, ma anche puntuale voce critica dei loro doveri. Sergio Mattarella incontra le giovani toghe in tirocinio e a loro chiede coraggio e umiltà. Sta ancora una volta in un difficile binomio l'equilibrio tracciato dal Capo dello Stato per i magistrati, invitati da subito a non essere né protagonisti né burocrati. Davanti ai timori diffusi nella categoria dopo l'approvazione della legge sulla responsabilità civile, il Presidente della Repubblica invita a non avere paura, ma garantisce anche il suo impegno nel valutare gli effetti della legge. Seguire il modello di magistrato, ispirato all'attuazione dei valori etici e ordinamentali, vi aiuterà a non lasciarvi condizionare dal timore di subire conseguenze di eventuali azioni di responsabilità. Ovviamente andranno attentamente valutati gli effetti concreti dell'applicazione della nuova legge. Imparzialità, riservo e soprattutto rispetto della dignità umana, questo il Quirinale chiede alle giovani toghe, che mette in guardia di nuovo dalla grave alterazione provocata sul paese dalla corruzione. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche il vicepresidente del CSM ha ribadito il monito del Capo dello Stato. Il magistrato, ha scandito Giovanni Legnini, si deve guardare dalle lusinghe dell'effimero protagonismo. Il numero 2 di Palazzo dei Marescialli auspica piuttosto una seria meditazione su un nuovo rapporto, ha detto, con la comunicazione e i suoi molteplici mezzi. L'altro monito del vicepresidente del CSM è sulle chiusure corporative. E sul fronte dei temi della giustizia, quella di domani è una giornata ad alta tensione per l'attesa del verdetto della Cassazione nel processo Ruby. La Suprema Corte dovrà decidere se confermare l'assoluzione per Silvio Berlusconi dai reati di concussione e prostituzione minorile, o piuttosto rinviare per un nuovo processo d'appello. A quasi 5 anni di distanza dal fermo di Karima Al-Marug, detta Ruby, che fece scoprire le serate del Bunga Bunga, già domani sera potrebbe arrivare dunque la sentenza del palazzaccio, o al massimo dopodomani. In primo grado l'ex premier è stato condannato a 7 anni, ma poi il verdetto è stato ribaltato in appello, dove il leader di Forza Italia è stato assolto perché il fatto non sussiste, dissero i giudici, e non costituisce reato. Intanto per Berlusconi si avvia verso la conclusione anche l'inchiesta milanese su Rubiter, la presunta corruzione dei testimoni. E c'è ancora un rinvio, davvero l'ennesimo, per la riforma della scuola. Dopo lo slittamento del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, Palazzo Chigi fa sapere che la riunione del governo non affronterà neanche domani l'argomento. Tutto rinviato ancora a giovedì alle 17.30, quando forse, finalmente, il CDM dovrebbe esaminare il disegno di legge sulla scuola. Durante la stessa riunione i ministri si confronteranno anche sul disegno di legge invece di riforma della RAI. Valide le nozze gay, contratte all'estero e registrate a Roma. Il TAR del Lazio riapre la questione. La battaglia legale è solo all'inizio, ma intanto le coppie gay si aggiudicano il primo round. Il TAR del Lazio infatti accoglie il ricorso di 2 coppie del Comune di Roma e decide che le trascrizioni in Italia dei loro matrimoni contratti all'estero non possono essere annullate, o meglio, non può farlo un prefetto, solo un giudice. Dunque tutto da rifare. Le trascrizioni per ora restano in attesa che si pronunci la magistratura. Ma facciamo un passo indietro. Era il 18 ottobre, in Campidoglio il sindaco di Roma Marino trascriveva nei registri dell'anagrafe i nomi di 16 coppie gay. Lacrime, abbracci, applausi, ma anche tante polemiche. Immediata la reazione del ministro dell'Interno Alfano, il quale con una circolare invitava i prefetti di tutti i comuni ad annullare le trascrizioni. Quello di Roma, Giuseppe Pecoraro, procedeva il 31 ottobre con un'ordinanza, di cui il ricorso e oggi il primo verdetto. Il TAR specifica però che l'attuale disciplina nazionale non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma che questa decisione appunto può prenderla solo il giudice. La vicenda dunque non è conclusa, ma intanto le associazioni omosessuali esultano, così come il sindaco Marino. Ho fatto solo il mio dovere, dice. Ora però Renzi colmi il vuoto con una legge nazionale. Intanto però qualcosa sembra muoversi. Nelle raccomandazioni dell'ONU, alle quali il governo ha risposto positivamente, ci sarebbero sia le unioni civili sia i matrimoni gay. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora andiamo a Mosca, nuovi fermi per l'omicidio di Boris Nemtsov, ma la pista cecena non convince tutti. Non convince proprio nessuno tra le persone che conoscevano Boris Nemtsov la versione più accreditata ormai dalla procura russa, secondo cui l'omicidio del leader dell'opposizione sarebbe legato alla strage di Parigi del 7 gennaio, alla solidarietà espressa da Nemtsov alle vittime dei terroristi islamici indignati per la pubblicazione di vignette offensive per l'Islam. Sarebbe questa la motivazione che ha spinto Zaur Dadaev a uccidere. Dadaev, caucasico come le altre 6 persone fermate, si sarebbe assunto la responsabilità del gesto, esecuzione e organizzazione. È un vero patriota ed era scioccato per l'oltraggio all'Islam, ha detto di lui il presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov, cercando in qualche modo di giustificare il gesto di un uomo che fino a poco tempo fa lavorava per lui, vice comandante del battaglione Siever. Questa pista islamica è molto conveniente per il Cremlino, perché lascia fuori dal quadro il presidente Putin e la questione ucraina, su cui Nemtsov si stava forse preparando a fare delle rivelazioni. Ma se Nemtsov è stato ucciso da un bravo musulmano umano deciso a vendicare Maometto, di cercare altri mandanti non c'è più bisogno e presto il caso verrà chiuso. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Vogliamo invece ora negli Stati Uniti. I'd like to turn to the newest addition to the Apple family. And of course I'm talking about the Apple Watch. It's not just with you, it's on you. Non solo sarà con voi, ma su di voi. Così il CEO della Apple, Tim Cook, oggi ha presentato l'attesissimo Apple Watch, prodotto definito il più personale che Apple abbia mai fatto. Lo sognavo da quando avevo 5 anni, ha detto Cook durante la conferenza di presentazione a San Francisco. Il dispositivo, che potrà essere usato per ricevere e fare chiamate, inviare messaggi, mail, fare pagamenti e fra l'altro controllare anche il battito cardiaco e il consumo di calorie, sarà in vendita dal 24 aprile in 9 paesi, fra cui Australia, Canada, Cina e Francia, ma non in Italia, dove la data ancora non è stata fissata. I costi vanno da $349 a $1099. È stato scarcerato ed è in buone condizioni Massimo Liberati, direttore di macchina del motopeschereccio Idra Q, arrestato dalle autorità del Gambia il 2 marzo insieme al comandante Sandro De Simone. Lo ha fatto sapere la Farnesina. I due pescatori sono accusati dell'utilizzo di reti da pesca non conformi alle leggi del Gambia. Il rilascio di Liberati in seguito alla garanzia finanziaria da parte dell'armatore dell'ammenda comminata dal giudice di Banyul. Le autorità del Gambia hanno stabilito che l'altro pescatore, cioè De Simone, in quanto responsabile dell'imbarcazione, resterà in carcere fino all'avvenuto pagamento dell'ammenda. Tifo e arte, un matrimonio impossibile? Dopo le devastazioni degli ultra del Feyenoord a Roma, Radio 24 ci prova. E in occasione di Fiorentina-Roma di Europa League, il sindaco di Firenze Nardella ha approvato la delibera tutti convocati. Così la spiega oggi Nardella. Detto fatto, domani mattina abbiamo la delibera e tutti i tifosi giallorossi e non solo, ovviamente, chiunque avrà un biglietto per la partita di Europa League Fiorentina-Roma potrà entrare gratuitamente in uno dei tanti musei civici della nostra città, a cominciare da Palazzo Vecchio, da dove parlo in questo momento, che è un museo straordinario. E quindi io credo molto in questo binomio tra cultura e sport. E restiamo sul calcio con i due big match del lunedì che chiudono il programma della 26ª giornata. In diretta il nostro Dario Ricci. Sì, buonasera Piera. Beh, allora, Juventus in campo contro il Sassuolo a Torino per provare a chiudere il discorso scudetto. Lo ricordiamo, bianconeri a più 9 sulla Roma, bloccata ieri dall'ennesimo pareggio sul campo del Chievo. In caso di vittoria contro il Sassuolo, volerebbero, è un vantaggio ormai incolmabile probabilmente. Beh, però il Sassuolo non ci sta e finora siamo intorno al 15° del primo tempo, risultato ancora di 0-0 e solamente un'occasione al lato di Vidal per quanto riguarda la Juventus, che anzi, mi correggo, è a più 8 sulla Roma, per questo non mi tornavano i conti. Non ti ho corretto Dario, perché no, so che tu sei appassionata della classifica di Serie A, ma sei stato molto buono nei miei confronti. Sì. Classifica che sta scalando invece la Lazio, che ha asfaltato la Fiorentina all'Olimpico 4-0 per i biancocelesti. In rete con Biglia al 6° minuto, al 20° il rigore di Candreva e poi nel finale la doppietta di Klose. Lazio che quindi ha agganciato al 3° posto a quota 46 il Napoli, Fiorentina che rimane ferma a 42 insieme alla Sampdoria. Lazio che chissà comincia a sognare anche la Champions, staremo a vedere. Grazie a Dario Ricci, che naturalmente ritroveremo poi nell'arco di Effetto Notte perché ci aggiornerà sul match. Appuntamento con Expo anticipato a Milano il prossimo 26 marzo, una sorta di notte bianca ad anticipare la nascita del nuovo Museo delle Culture, il MUDEC, attraverso due grandi mostre, Mondi a Milano e Africa, la terra degli spiriti, il legame antico di Milano con l'esposizione universale e con le culture di tutto il mondo. Le due mostre sono state ideate proprio in relazione all'eccezionale occasione di Expo Milano 2015, promosse dal Comune di Milano Cultura all'interno del palinsesto di Expo in città e prodotte da 24 ore Cultura. Prima di fermarci un istante, treni fermi, attenzione per chi si deve muovere nel fine settimana, treni fermi nel prossimo fine settimana, le sigle sindacali USB Lavoro Privato e CAT hanno proclamato uno sciopero dalle ore 21 di sabato 14 alle ore 21 di domenica 15 marzo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. All'Eurogruppo il negoziato sulla Grecia rinviato a mercoledì, intanto l'ex Troika torna ad Atene. La BCE ha dato il via all'acquisto di titoli anche italiani, un'operazione da 150 miliardi di euro. Riforme, domani il voto finale alla Camera, non saranno in aula 5 Stelle, ci saranno invece Forza Italia, SEL e Lega, minoranza Dem riunita per decidere cosa fare. Le parole del presidente Mattarella ai giovani magistrati della nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati andranno attentamente valutati gli effetti concreti della sua applicazione. Riforma della scuola, slitta ancora, Consiglio dei Ministri rinviato a giovedì, slitta anche la riforma della RAI. L'annullamento delle trascrizioni di nozze gay celebrate all'estero può arrivare solo dal Tribunale Civile, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il commento del Viminale, noi coerenti con le norme attuali. Presentato oggi a San Francisco l'Apple Watch, sarà in vendita dal 24 aprile in 9 paesi, ma non in Italia, dove la data ancora non è stata fissata. I costi variano fra i 349 e i 1099 dollari. E ancora, la Lazio travolge la Fiorentina per la Juventus contro il Sassuolo, match point scudetto. لا يشرفني ان احضر بلا نوقف الموضوع لو سمحتوا شباب لحظة يعني او بده يكون في احترام متبادل او بلا الموضوع كله. È diventato virale sulla rete il video di cui vi abbiamo fatto sentire un pezzettino forse più interessante, anche se non abbiamo capito benissimo naturalmente che cosa dicessero. Lei è la conduttrice televisiva libanese Rima Karaki, lui egiziano e al Sebai, opinionista vicino alle posizioni dell'Islam radicale. I due stanno parlando dei metodi usati dall'ISIS per reclutare cristiani in Medio Oriente. Quando lo studioso inizia a divagare, lei lo interrompe come farebbe qualsiasi giornalista. Lui stizzito la invita a stare zitta, usa proprio questi termini, e lei non si fa intimidire. Se non c'è rispetto reciproco, la conversazione è finita, dice e chiude il collegamento. È partito oggi il piano di quantitative easing, letteralmente l'allentamento quantitativo. È la prima volta che succede nella storia della BCE. Il piano si tradurrà per l'Italia in acquisti di titoli di Stato per complessivi 150 miliardi di euro. Di questi 130 miliardi arriveranno dalla Banca d'Italia, mentre gli altri 20 saranno messi sul tavolo dalla BCE. I primi acquisti della BCE sono stati concentrati sui titoli di Stato tedeschi, poi francesi e quindi italiani. La BCE non può invece acquistare titoli greci finché Atene non avrà raggiunto l'accordo con i creditori. Peraltro nella stessa giornata di oggi, come abbiamo sentito nella prima parte di Effetto Notte, a Bruxelles è andato in scena proprio l'Eurogruppo sulla Grecia e i negoziati fra Grecia e le istituzioni europee riprenderanno mercoledì a Bruxelles. Il governo greco continuerà ad aggiornare la lista delle riforme. In collegamento con noi Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera a voi. Allora, ne abbiamo parlato tutto il giorno naturalmente qui su Radio 24 di questa operazione così eccezionale. Ecco, aiutaci a capire così in conclusione di giornata, è l'ultima chance diciamo per noi per spiegare cosa è successo esattamente oggi, perché davvero non sono cose molto semplici poi da capire anche come influiscono nel nostro quotidiano. Dunque, cosa è successo oggi? Perché questa decisione così eccezionale della BCE? Beh, perché fino adesso la Banca Centrale Europea non era mai intervenuta direttamente con gli allentamenti quantitativi che invece sono propri di banche centrali con più blasone, perché più antiche, tipo la Fed o la Bank of England. Sostanzialmente per la prima volta Draghi ha avuto la meglio sulle posizioni più intransigenti che non volevano interventi diretti sui mercati da parte della BCE, invece da oggi effettivamente la Banca Centrale Europea compra titoli o fa comprare titoli, per meglio dire, dalle banche centrali e in modo da alleggerire soprattutto i bilanci delle banche, nella speranza che poi questo alleggerimento si possa tradurre in un corrispettivo di erogazioni di liquidità al sistema dell'economia reale, alle imprese, alle famiglie, per questa via possa rilanciare un po' la domanda interna e quindi anche un tasso di inflazione più conciliabile con lo statuto della BCE, che è intorno al 2%, mentre adesso, sì, come sappiamo, l'inflazione attesa per il 2015 nell'Eurozona è intorno allo zero. E quindi questo, ecco Alberto, in particolare per il nostro paese. Per il nostro paese appunto c'è questa disponibilità che è stata annunciata intorno ai 150 miliardi, e quel discorso che facevo in termini generali a maggior ragione vale da noi, ed è molto importante che ciò sia, perché l'Italia è uno dei paesi più affetti dalla malattia della mancata domanda interna e quindi dal congelamento e dalla glaciazione dell'economia, che impedisce quindi un dispiegamento degli effetti della ripresa. Ecco, c'è il timore che questi soldi poi non arrivino alle aziende, non arrivino poi ai cittadini? Sì che c'è il timore, chiaramente, però diciamo così, si c'è modo di vigilare su questo. Ecco, e questo lo dovrebbe fare la Banca Centrale naturalmente, ma soprattutto però si crea un meccanismo per cui alla fine effettivamente ricreare il circolo virtuoso della liquidità conviene anche alle banche a questo punto, perché hanno tutto l'interesse a far ripartire l'economia, e quindi è auspicabile che davvero ci siano delle condizioni, come posso dire, ambientali ed esterne che inducano poi la ripartenza di un circolo virtuoso del sistema economico. Certo, che fa bene poi a tutti, insomma. Chiaramente, certo. Grazie Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, per averci fatto un po' capire davvero questa giornata così complicata e così eccezionale. Grazie mille Alberto. Sì, arrivederci. E noi con una piroetta cambiamo decisamente argomento. Crescono in Italia le diagnosi di tumore, ma le cure portano alla guarigione un paziente su 4. Lo evidenziano i dati del rapporto AIRTUM 2014 sui tumori in Italia, appunto presentato oggi alla presenza del ministro Lorenzin. AIRTUM, per chi non lo sapesse, è l'Associazione Italiana Registri Tumori. Siamo in collegamento con Luigino Dalmaso, dirigente statistico dell'unità di epidemiologia e biostatistica del centro di riferimento oncologico di Aviano. Buonasera Dalmaso. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Un argomento molto delicato, davvero molto, molto delicato questo. Dall'indagine e dal rapporto che avete presentato oggi traspaiono delle buone notizie e alcune decisamente meno. Ci vuole dare ad esempio il dato generale, quanti saranno quest'anno i malati di tumore? Sì, i malati di tumore, lei ha detto bene, è un argomento delicato, ma di cui è bene parlare in qualche modo. Quello che evidenzia nel nostro rapporto è che ci sono 3 milioni di persone in quest'anno che vivono una diagnosi di tumore. Queste non sono persone che si ammalano ogni anno, i malati nuovi ogni anno sono circa 366.000, circa 1.000 all'anno. Però siccome le cure e i trattamenti migliorano di anno in anno, le sopravvivenze, le possibilità di vivere anche molto a lungo, a volte essendo guariti, a volte anche senza essere guariti, ma vivendo molto a lungo, aumentano. Quindi di questi circa 1.000 persone all'anno che si ammalano, si accumulano persone che vivono molto a lungo e sono circa 3 milioni quelli che vivono con questa esperienza in passato. Quindi quelli nuovi dell'anno saranno circa 1.000? Al giorno circa 366.000 stimiamo circa ogni anno nuove diagnosi di tumore in Italia. Sempre in crescita purtroppo? No, la crescita è molto, un po' difficile da misurare nei confronti temporali, ci sono questioni tecniche. Allora, il numero assoluto di casi aumenta leggermente nel tempo, ma noi siamo in grado anche di valutare le motivazioni, che sono in gran parte dovute anche al fatto che la popolazione italiana invecchia. Lei sa che all'aumentare dell'età aumenta di molto il rischio di ammalarsi di tumore, e quindi in gran parte di questo aumento in termini di numeri assoluti è dovuto a questo invecchiamento della popolazione. Noi abbiamo degli strumenti per depurare, per tener conto di questo invecchiamento, e quando togliamo l'effetto dell'invecchiamento della nostra popolazione italiana vediamo che queste cose, che noi chiamiamo tassi di incidenza, non cambiano nel tempo. Quindi se a parità di età la nostra popolazione italiana, il numero di casi sarebbe abbastanza costante. Ed è addirittura in leggera diminuzione nei maschi, dovuta all'effetto di campagne preventive, alla cessazione di fumo, di abitudine del fumo in molti maschi. Purtroppo questo ancora non si vede nelle femmine, ma è già evidente questo effetto nei maschi italiani. Quindi la prevenzione sta funzionando più sui maschi che sulle femmine, è questo che mi sta dicendo? No, sono d'abitudini che nel tempo si sono modificate, quindi erano molti di più fumatori in passato nei maschi e su questi si è riusciti a farli dimettere. La prevenzione secondaria, quelli che noi chiamiamo screening, ha avuto molto effetto anche nelle donne, quindi prevenendo in modo netto nel tempo i tumori della cervice uterina, su cui si fa screening, quindi si tolgono le lesioni prima che diventino maligne e mettono in pericolo la vita della donna. Altri tipi di screening, come i tumori della mammella, fanno sì che le persone che vivono con questa esperienza siano in leggero aumento in certe aree, però naturalmente sono casi che vengono presi in fasi più precoci della malattia, sono più facilmente curabili e non portano a morte le donne come in passato. Ecco, le mortalità comunque è un dato molto chiaro, molto netto da tutti i dati che noi abbiamo, è che le mortalità, quindi l'effetto peggiore della malattia, è sempre in netto calo da molti anni in Italia. E questa è davvero una buona notizia, ed è una buona notizia anche quella, lo accennava prima, sui cosiddetti lungo sopravviventi. Non si guarisce, però si vive più a lungo. Ci sono entrambe le cose. Allora, questo termine lungo sopravviventi spesso non piace ai pazienti. Ci sono associazioni con cui noi lavoriamo, che sono state presenti anche alla conferenza di oggi, di pazienti che non amano la parola sopravviventi perché si sentono in qualche modo miracolati. E allora questo, in termine tecnico, la lungo sopravvivenza significava persone che vivono da più di 5 anni. Allora ci sono delle malattie che dopo 5 anni è ben raro che portino a nuove ritorni della malattia, rischio di morte, altre invece che purtroppo si manifestano anche molto più a lungo. Il nostro studio che abbiamo presentato oggi in qualche modo riesce a confrontare come l'attesa di vita di questi pazienti si avvicina a quella della popolazione generale, e abbiamo definito guariti, già guariti, quelli che ormai non hanno più un eccesso di mortalità rispetto alla popolazione generale, e sono oltre un quarto di tutte queste persone che vivono avendo avuto un tumore in passato, che ormai possiamo definire, che noi abbiamo definito già guariti. Non esiste un termine su cui tutti gli oncologi, certo, su cui tutti anche in altri paesi sono d'accordo, ma noi li abbiamo definiti già guariti, dicendo, poi spiegando che significa che hanno la stessa attesa di vita in termine quantitativo della popolazione generale. Insomma, non è poco, certo. Naturalmente per loro è importante lavorare anche alla riabilitazione, perché comunque avranno affrontato esperienze molto dure sia loro che la loro famiglia, quindi non è un'esperienza, una cosa da sottovalutare. In ogni caso, però, in termini quantitativi loro non mostrano più un eccesso di mortalità, non rischiano più oltre a quello che rischia la popolazione normale. Chiaro, chiarissimo. In una parola, in una frase, quantomeno, il ministro della Salute Lorenzin, che era con voi questa mattina alla presentazione del rapporto, dice che un sistema come il nostro deve essere in grado di garantire a tutti l'accesso ai nuovi farmaci in modo appunto che possano, in modo universalistico. Ha detto che o ti guariscono o ti aumentano in modo eccezionale l'aspettativa di vita. È così, è ancora così difficile per tutti accedere a questi nuovi farmaci? È difficile per alcuni, questo è un problema molto delicato, che è più un problema politico che diciamo di tecnico di sanità nostro. Allora c'è una discussione molto forte sia in ambito nostro epidemiologico che in ambito di sanità pubblica sul fatto che i nuovi farmaci quanto devono essere diffusi e promossi, perché i nuovi farmaci naturalmente è importante che portino un beneficio ai pazienti, ma un beneficio che sia di lungo termine, che portino possibilmente a una guarigione definitiva. Lei sa che ci sono molti farmaci che vanno inseriti nel mercato che magari mostrano un beneficio che però dura solo pochi giorni e spesso sono quelli i farmaci più costosi. Su questo c'è molta discussione se tutti essenzialmente finiscono i soldi alle regioni, certo. E questo è un discorso di soldi, chiaramente rende difficile naturalmente. Ha ragione ovviamente il ministro quando dice che quando un farmaco è di dimostrata efficacia porta effetti a tutta la popolazione, si deve fare tutti gli sforzi possibili perché venga distribuito al maggior numero di pazienti possibili. In questo l'Italia in qualche modo è già a un buon punto rispetto ad altri paesi europei, le sopravvivenze nostre sono molto alte rispetto anche a paesi come l'Inghilterra, in cui chi può permettersi una assicurazione privata se li paga, altrimenti non se li paga. Quindi la nostra struttura della sanità pubblica universalistica dà già buoni frutti, questo si vede nei confronti internazionali, ma la linea da seguire è senz'altro questa. Grazie a Luigino Dalmaso, dirigente statistico dell'unità di epidemiologia e biostatistica del centro di riferimento oncologico di Aviano. Noi ci fermiamo per qualche minuto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riforme, domani il voto finale alla Camera, non ci saranno in aula i 5 Stelle, ci saranno invece Forza Italia, SEL e Lega, minoranza Dem riunita per decidere come votare fra poco. Ai nostri microfoni Pippo Civati. La riforma della scuola slitta ancora, Consiglio dei Ministri rinviato a giovedì, slitta anche la riforma della RAI. All'Eurogruppo negoziato sulla Grecia rinviato a mercoledì, ma intanto l'ex Troika torna ad Atene. La BCE ha dato il via all'acquisto di titoli anche italiani, un'operazione da 150 miliardi di euro. L'annullamento delle trascrizioni delle nozze gay celebrate all'estero può arrivare solo dal Tribunale Civile, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il commento del Viminale, noi coerenti con le attuali norme. Presentato oggi a San Francisco l'Apple Watch, sarà in vendita dal 24 aprile in 9 paesi, ma non in Italia, dove la data ancora non è stata fissata. I costi vanno dai $349. La Lazio travolge la Fiorentina, per la Juve contro il Sassuolo match point scudetto. Lo dicevamo anche nei titoli, domani il voto finale alla Camera sulle riforme, non saranno in aula i 5 Stelle, saranno invece in aula dopo l'avventino del 13 febbraio scorso Forza Italia, SEL e Lega, che oggi hanno fatto sapere che dopo l'incontro con il presidente Mattarella hanno comunque deciso di partecipare al voto pur restando contrari alle riforme proposte. Il capogruppo del PD Roberto Speranza ha espresso apprezzamento per il gesto di questi tre gruppi di opposizione e sarà in aula anche la minoranza del PD, ma cerchiamo di capire per votare come, e lo facciamo con il nostro ospite Pippo Civati, deputato PD. Buonasera Pippo. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, si è conclusa la riunione della minoranza Dem? Sì, io non vi ho partecipato però perché avevo già deciso che cosa fare, trovo un po' stucchevole questa discussione sulle modalità di voto fin dall'inizio di queste riforme. Nelle votazioni dei primi articoli io ho espresso le mie critiche, ho presentato gli emendamenti, li ho votati, ho votato in modo contrario ai primi due articoli che sono quelli fondamentali per quanto riguarda la riforma del Senato, quindi avevo già deciso che il mio sarebbe stato un non voto, non parteciperò al voto domani, senza voler fare paragoni con le forze di opposizione, ma per segnalare un problema, una riforma. Ecco, cos'è male, che non, che cos'è che non le piace di questa riforma? Parliamo prima dei contenuti, poi vediamo anche magari di capire se la forma non le piace. Ringrazio perché è la prima volta che me lo chiedono, perché in senso si parla solo di gossip, chi fa cosa, con chi, le correnti, non ne posso più, quindi mi fa molto piacere parlare di contenuti. Ecco, è cos'è che non le piace? Prevede ancora un Senato che però non è scelto dai cittadini, questa la trovo una cosa bizzarra in un momento di crisi della rappresentanza. Se il Senato fa ancora cose importanti, rimane anche ridimensionato nei numeri, però nulla vieta che si possano scegliere da parte dei cittadini i senatori, invece saranno scelti con un sistema indiretto per cui voteranno i consigli regionali e saranno in maggioranza dei consiglieri regionali che part time faranno anche i senatori a Roma. Mi sembra una soluzione molto discutibile. Poi c'è tutta la partita, per andare in sintesi, sul titolo quinto. Noi eravamo molto federalisti in passato, siamo ritornati invece ad essere troppo centralisti. Anche su questo una riflessione in più ci sarebbe stata se avessimo, come lei ricorderà, discusso con un po' più di pacatezza e un po' più nel merito le riforme che a un certo punto si sono infilate nella seduta fiume cosiddetta, ovvero in una specie di discussione a rotta di collo in cui si votava senza nemmeno più le minoranze presenti in aula. E a proposito di pacatezza, Renzi ieri ha detto: nessuno può permettersi di fermare il cambiamento, l'Italicum sarà approvato così com'è, senza modifiche, insomma nulla lo fermerà. Sì, prego, anche il metodo mi sembra che non vi piaccia, no? A me non piace per niente, oltretutto questo dovrebbe ricordare anche a chi è scettico, però alla fine domani sarà in aula a votare a favore, penso a Bersani e tanti altri colleghi, che continuare a mettere condizioni che poi Renzi sbaraglia non è una grande idea, nel senso che Renzi ha già dichiarato che la legge elettorale non vuole cambiare, che le riforme vanno bene così, quindi non ci resta che esprimere un voto che non è per fermare le riforme, ma per chiedere dei correttivi, delle modifiche o dei cambiamenti che ogni singolo parlamentare, ogni gruppo può presentare. C'è un clima da fine del mondo, se non si vota immediatamente finisce, non so, si stacca la corrente. Tenga conto che per esempio la legge elettorale è stata votata in Senato qualche settimana fa e pare che si torni a discutere alla Camera dopo le regionali, quindi c'è una strana fretta che poi si stenterà, perché insomma è un gioco tattico che il Presidente del Consiglio interpreta benissimo. Le ripeto, non ho nessuna intenzione di fermarlo, però nemmeno di accettare qualsiasi cosa che sia poi così lontana dai miei convincimenti, ma soprattutto dal mandato elettorale che ho ricevuto. Un conto è superare il Senato. Va bene. Grazie mille, Pippo. Ha fatto benissimo, ha espresso benissimo il suo pensiero. Noi invece adesso con una capriola andiamo a San Francisco, idealmente in realtà, perché ci colleghiamo con Enrico Pagliarini, che a San Francisco non è. Buonasera Enrico. Buonasera a voi. Chi l'ha detto che non sono a San Francisco? Sei a San Francisco? No, sono a San Francisco. Ah, ecco, volevi fregarmi. Sono nel fuso orario. Allora, raccontaci tutto di questo Apple Watch, perché insomma abbiamo visto tante immagini oggi in televisione, sui siti, abbiamo cercato anche un po' di raccontare queste novità, ma tu che conosci bene le nuove tecnologie, qual è il punto di svolta di questo Apple Watch? Allora, il punto di svolta, partiamo da quando uscirà, così già prendiamo le misure, dal 24 aprile, ma la brutta notizia è che l'Italia non è tra i primi paesi. Se uno è desideroso di provare l'Apple Watch potrà andare in Francia, in Germania, che sono i paesi più vicini, o nel Regno Unito, in Gran Bretagna, perché sono i paesi europei che sono più vicini a noi per il lancio. Una delle grandi attese era relativa alla durata della batteria. L'orologio è uno strumento che noi portiamo al polso, chi porta l'orologio per buona parte della giornata, ci sono oramai orologi automatici che praticamente non richiedono mai di essere ricaricati, e la ricarica sappiamo che è uno dei grandi problemi dei terminali mobili. E qui la prima brutta notizia: solo 18 ore, quindi di fatto tutti i giorni uno deve ricaricare questo telefono. Questo sicuramente ha un po' deluso tutti. Sulla forma e sulle caratteristiche principali già Apple aveva detto molto qualche mese fa, quando aveva preannunciato questo orologio. C'è molta attesa perché dal successo o dall'insuccesso di questo orologio potremmo dire che si determineranno le sorti del grande trend degli orologi smart che negli ultimi mesi abbiamo visto. Vedremo a partire dal 24 aprile come saranno le vendite, dopodiché è tutto confermato quello che era stato preannunciato. Questo è un orologio con il quale si possono fare un sacco di cose collegandolo allo smartphone, quindi a un iPhone. Si può pagare con il sistema di pagamento Apple Pay, che per il momento è attivo solo negli Stati Uniti, quindi anche questa è una questione che non riguarda per il momento l'Italia. Si può interagire con Siri, che è l'assistente vocale dell'iPhone. Si possono fare un sacco di cose con l'iPhone in tasca e guardando o rivolgendoci solamente all'orologio. Diciamo anche quanto costa. Qui dipende dai punti di vista, molto poco. Si parte da 349 euro. Sì. A salire, perché ci sono tantissime versioni, tantissime varianti. Ce n'è una molto curiosa che è forse quella che farà discutere di più, un orologio da $10,000, perché ha alcune parti in oro, alcune accidenti. Parti molto molto pregiate, quindi sicuramente quello, vabbè, quello non ce lo compriamo, magari ci compriamo quello del 349. Esattamente. Ci fa pagare in maniera comoda, direi che ci basta. Sì, Enrico, tu l'hai provato, dimmi solo una cosa, tu l'hai avuto fra le mani, ti è capitato o no? No, perché fino ad oggi non era disponibile per nessuno, è stato preannunciato. Diciamo che i primi modelli potranno essere provati negli Apple Store a partire dal 10 di aprile, ma solo negli stati dove questo orologio poi uscirà sul mercato. Quindi ti mandiamo in Francia il 10, così lo proverai. Esattamente. grazie mille al nostro Enrico Pagliarini. Noi ci fermiamo per qualche istante. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. All'Eurogruppo, negoziato sulla Grecia rinviato a mercoledì, intanto l'ex Troika torna ad Atene. La BCE ha dato il via all'acquisto di titoli anche italiani, un'operazione da 150 miliardi di euro. Riforme, domani il voto finale alla Camera, non ci saranno in aula i 5 Stelle, ci saranno invece Forza Italia, SEL e Lega e in ordine sparso la minoranza Dem. La riforma della scuola slitta ancora, Consiglio dei Ministri rinviato a giovedì, slitta dunque anche la riforma della RAI. Presentato, l'abbiamo sentito poco fa, a San Francisco l'Apple Watch sarà in vendita dal 24 aprile in 9 paesi, ma non in Italia. Europa 24 notte. Parte da Torino un progetto europeo nel campo agroalimentare. Agroinnova, centro specializzato dell'Università di Torino, coordinerà un progetto europeo quadriennale finalizzato alla protezione del patrimonio agricolo e forestale dai parassiti, vegetali o animali che provengono da altri continenti per effetto della globalizzazione. Grazie ad un finanziamento europeo di 7 milioni nell'ambito del programma Horizon 2020, coinvolti nel consorzio anche Belgio, Spagna, Olanda, Francia, Inghilterra, Lettonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Canada. Ruolo fondamentale lo avranno le piccole e medie imprese, come spiega Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, al microfono di Anna Marino. È un progetto europeo nel campo di Horizon 2020 che riguarda il cosiddetto Societal Challenges, quindi le sfide che deve affrontare la società nel campo dell'agricoltura. Riguarda il tema della biosicurezza, quindi della prevenzione del passaggio di parassiti da un continente all'altro, e chiaramente essendo un progetto europeo lo scopo è quello di proteggere l'Europa dall'arrivo di nuovi parassiti per le colture agrarie, per le foreste. Parassiti in senso ampio, quindi intende funghi, batteri, virus, insetti e infestanti, e prende in considerazione il progetto le specie, i parassiti nativi, quindi già presenti, ma soprattutto le cosiddette specie, i parassiti alieni, quindi che arrivano da lontano, da altri continenti. Questa caccia, diciamo, agli alieni, quindi ai parassiti, esatto, che voi siete in procinto di iniziare, è un progetto di quasi 7 milioni di euro di finanziamento, una durata di 4 anni, 22 partner che fanno parte di questo consorzio, tra istituti di ricerca, associazioni, piccole e medie imprese private, sì, provenienti da 10 paesi, con una prevalenza di partner privati su pubblici. Ecco, questi sono alcuni numeri di questo progetto che si chiama Enfasis. Perché? Si chiama Emphasis perché, come sempre, è un acronimo di un lunghissimo titolo, ma anche l'acronimo è bello, anche se in realtà io questo progetto l'avrei voluto chiamare Nathalie, perché erano specie native aliene, ma purtroppo questo nome era stato usato da un altro consorzio che poi peraltro non ha vinto, ma ormai l'abbiamo battezzato Emphasis. Noi abbiamo volutamente, credo che sia questo stato anche uno delle nostre mosse vincenti, col senno di poi, voluto dare moltissimo spazio alle imprese. Il Horizon 2020 già chiede che almeno il 20% dei partner, il 20% meglio delle risorse vada alle imprese. Noi siamo andati oltre dando alle imprese praticamente il 50% delle risorse, perché come Agroinnova noi siamo un centro di competenza nato proprio per mettere insieme ricerca pubblica e ricerca privata. Abbiamo sempre cercato di lavorare al massimo con le imprese, o meglio ancora per le imprese del territorio, per le imprese a livello europeo. Cosa farete in questo progetto? Tra l'altro voi avete già esperienza internazionale sulla biosicurezza maturata in ben 6 progetti, di cui 4 finanziati dall'Unione Europea e 2 dalla NATO. E ci siamo fatti le ossa oltretutto coordinandoli tutti questi progetti. Allora, questo progetto prende in considerazione i sistemi agro e i sistemi forestali europei e quelli che possono essere i problemi emergenti di parassiti nuovi che arrivano, quindi mette in atto delle misure di prevenzione, di preparazione, di prevenzione, di protezione e poi anche di promozione, cioè oltre dobbiamo essere in grado di capire quali possono essere i problemi nuovi che arrivano, prevenire da un lato e avere delle tecniche diagnostiche, e allora poi ci vogliono le imprese che le sviluppino commercialmente. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Sono 2 gemelli, un maschio e una femmina, i primi 2 bambini italiani nati con la fecondazione assistita eterologa. La notizia è di poco fa, l'abbiamo letta insieme dalle agenzie. L'evento è stato possibile dopo la sentenza del 9 aprile scorso che ha dichiarato legittima appunto questa tecnica. Ma noi non parleremo di questo con il nostro ospite Maurizio Caprino, il collega del Sole 24 Ore che sa tutto di auto, strade, multe, perché con lui invece vogliamo parlare di un'altra notizia che abbiamo notato oggi. L'IVAS, che è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, su sollecitazione anche delle associazioni dei consumatori, vuole vederci chiaro sulla pratica seguita da diverse case automobilistiche che offrono ai clienti che acquistano un'auto nuova una polizza RC Auto in omaggio. Al termine però del periodo promozionale gli assicurati possono perdere i benefici della classe di merito acquisita prima dell'offerta. Sì. Quindi è un po' una fregatura? Beh sì, succede quando queste polizze sono cosiddette o a libro matricola o con franchigia, cioè sono polizze che non hanno il normale bonus malus a cui noi tutti siamo abituati, per cui perdiamo la nostra classe di merito e al termine dell'offerta promozionale, quando vogliamo rientrare nel meccanismo delle classi di merito del bonus malus, il sistema non si ricorda più di noi, quindi dobbiamo partire dall'inizio, quindi dalla classe 14esima. Quindi secondo te conviene o no? Beh, a queste condizioni no, quindi bisogna accertarsi che le polizze non siano di questo tipo, cioè se vi fanno una promozione del genere accertatevi che sia una bonus malus intestata a vostro nome. Paradossalmente proprio in questi giorni sui giornali c'è la pubblicità che mette in guardia i consumatori dall'acquistare vetture nuove da presso canali paralleli concessionari non ufficiali, però questa fregatura è stata presa anche e soprattutto da chi ha comprato presso concessionari ufficiali. Quindi non badate all'etichetta da chi comprate, insomma, ma chiedete al venditore che cosa vi sta vendendo. E soprattutto magari leggere bene quello che dovremo firmare, no? Suppongo, perché ci sarà modo di capirlo questo. No, purtroppo no, no. Non c'è molto modo bisogna di capirlo. Bisogna telefonare a te allora. Aiuto, no? No, comunque l'IVAS sta intervenendo e farà probabilmente, darà ulteriori prescrizioni. Sì. Grazie a Maurizio Caprino, un saluto da Maria Piera Ceci, ci ritroviamo fra pochissimo con GR24.